Doppio sconto, grandi saldi. Non aspettare. Scatenati con lo shopping a MacArthur Glen nella Reggia Designer Outlet e risparmia sui tuoi fashion brand preferiti con prezzi outlet ancora più scontati. Vieni a trovarci. Sabato e domenica siamo aperti fino alle 21. Tra le onde del mattino, tra il sussurro e il destino, Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto, senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli di casa, che fa strano, sentire la canzone che parla del mattino quando in realtà è notte. Non dico notte fonda, ma sicuramente è abbastanza notte. Mi trovo qua a casa completamente da solo, anzi non completamente da solo, mi sono premunito di avere con me qui intorno che mi guardano, si rotolano, si sgrattugiano, fanno quello che gli pare, gatti e cani, quindi due gatte e una cagna che stanno qui mentre che mi fanno compagnia, dato che Michela è andata a vedere il concerto di Nicolò Fabi, insomma Circo Massimo, qualsiasi cosa ci sia al Circo Massimo a Roma in questo momento, c'è anche Michela con le sue amiche, quindi buon divertimento a loro, e io sono rimasto qua a casa da solo, insomma mi sono risparmiato le trafilate, mi sono risparmiato il caldo, il sudore, le sminchie, insomma tutto quello che concerne, e quindi ovviamente mi è venuto in mente di fare questa live. Sono praticamente completamente da solo e penso che sarò da solo anche in senso di ascolto, però poi vi beccherete quello che è la versione podcast di questa serata che sto facendo così. Diciamo che potrebbe essere considerata una sorta di crossover tra il Grand Reset e Runtime by Night, ma di Runtime by Night, oltre ai temi, insomma, che come possono ovviamente coincidere tutti i temi di un talk show, indipendentemente da quando viene trasmesso, poi alla fine quello che un po' associa è l'orario, quindi questo orario 22:30, che non è di venerdì, dato che comunque siamo andati in onda venerdì scorso. In teoria Runtime by Night, nella sua versione originale, dovrebbe tornare venerdì prossimo, quindi vediamo un attimo, ci organizziamo. Ma ci sono diverse novità che salteranno agli occhi di tutti. Ma più che altro stiamo andando verso un finale di stagione e vogliamo fare un finale di stagione col botto, cioè nel senso attirando un po' l'attenzione, stando un po' tutti quanti insieme, chiamando a raccolta la gente, perché poi ovviamente si andrà in ferie, meritate ferie, anche da Runtime Radio prendere una pausa da un progetto che, per quanto ovviamente non sia professionale o professionalizzato, è comunque un progetto che porta via veramente tante energie a me e a tanti altri ragazzi che comunque collaborano all'interno di Runtime Radio, così come Walter, così come Alex e via dicendo, tutte quelle persone che comunque quasi a livello quotidiano dedicano del loro tempo a questo grosso progetto. E quindi che succederà in questo finale di stagione? Commerciale no profit per te, 10 anni di podcast alle spalle, un'esperienza che non ha eguali, sempre con te. Accendi il tuo computer, sintonizzati sul nostro canale, l'informazione, l'intrattenimento, qui non mancano mai, fidati del segnale. Nunca se deja ver, no sabe disimular. Dele, mantenos privados pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. Ammazza, è schifo sta canzone, ma mi sa che la playlist di stasera farà un po' tutta schifo, ve lo dico subito. Perché in realtà ho ricaricato della roba sul database e questo ricaricare della roba sul database ha un po' smucinato e quindi insomma va a prendere più da alcune cose che sono magari arrivate per ultime, e non so perché c'è tanta musica latinoamericana questa sera, che in generale a me non fa neanche schifo, ma certo non neanche l'ascolto, insomma, devo dire la verità. E intanto vediamo che c'è un messaggio dalla chat, vedi, parli di musica sudamericana e ti sbuca fuori Mr. Zero. Allora, novità, diciamo che andiamo verso questo finale di stagione di Runtime Radio e con questa iniziativa, un'iniziativa che avevamo pensato già a febbraio, quando volevamo fare l'Antisanremo. Poi l'Antisanremo l'abbiamo fatto diventare un concorso della musica digitale, poi dopo della musica artificiale, poi dopo però poi non abbiamo fatto più niente perché organizzarsi sembrava un po' una cosa complicata in questo periodo, dove comunque Runtime Radio sta tirando i remi in barca per chiudere la stagione e insomma ritornare poi a settembre, piano piano ritornare poi a settembre con carichi e gagliardi e tosti. Abbiamo avuto forse più tempo per pensare e l'abbiamo un po' buttata lì, cioè nel senso, perché il nostro dubbio era più che altro il fatto che magari non interessava a tutti quello di partecipare a questa cosa del Festival della Canzone Artificiale. E l'abbiamo proprio messa lì, nel senso che pensavamo che in qualche maniera sarebbe stato divertente farlo, ma non avevamo nessuna aspettativa sulla partecipazione, tant'è che noi poi alla fine avevamo, diciamo, una banca di canzoni già pronte, che avevamo detto comunque se non arriviamo almeno a 8-16 canzoni, diciamo, poi alla fine ce le buttiamo dentro noi. E invece le canzoni alla fine sono arrivate anche con grande entusiasmo e anche in un tempo estremamente breve. Quindi poi fondamentalmente quello che è successo è che quello che era il 15 di luglio come termine ultimo a presentare le canzoni è stato completamente distrutto, tant'è che ieri o l'altro ieri abbiamo chiuso ovviamente l'elenco delle canzoni e abbiamo detto di non mandare più altre canzoni, che qualora poi sarebbero comunque arrivate altre canzoni sarebbero state poi utilizzate in un'eventuale seconda edizione del Festival della Musica Digitale, della Canzone Artificiale. E quindi abbiamo avuto alla fine queste 20 canzoni che a questo punto abbiamo fatto un po' un ragionamento. Invece di fare una serata che sarebbe potuta durare 2 ore e mezza, 3 ore, abbiamo detto dividiamo comunque il Festival della Canzone Artificiale in 2 serate, e facendo praticamente 2 semifinali, e poi ovviamente dice vabbè, ma poi cioè, ovviamente le semifinali ci sarebbe stata anche una finale, quindi a quel punto le serate diventavano 3. Inevitabilmente le serate diventavano 3 e quindi a questo punto abbiamo ulteriormente cambiato quelli che sono le carte in tavola, ossia abbiamo cambiato le date. Invece di partire con mercoledì 17, partiamo da questo mercoledì che viene, mercoledì 10, mercoledì 17 e mercoledì 24 saranno le 3 serate del Festival della Canzone Artificiale 2024, organizzata da Runtime Radio, con il contributo e la partecipazione di tutti quelli che hanno voluto comunque dare un contributo. Questa iniziativa, lo ripeto, eventualmente qualcuno ci avesse ancora un po' di confusione, non è assolutamente fatta per incensare o fare un endorsement sullo strumento generativo con intelligenza artificiale per quanto riguarda quindi le canzoni in generale, l'arte in generale, ma è semplicemente un po' una sorta di sperimentazione, anche un po' una sorta di concorso, chiamiamolo goliardico, cioè un modo per scherzare insieme su questo tipo di cose, in modo da dare l'opportunità alle persone che vogliono essere creative di tirare fuori comunque delle idee che potessero essere sia serie, perché sono arrivate anche alcune cose che magari sono un po' più serie, sia romantiche che ovviamente goliardiche, cioè nel senso sono delle canzoni che a me fanno ridere, devo dire la verità, cioè mi fanno ridere positivamente, quindi trovo questo esperimento secondo me abbastanza riuscito. Quindi avremo praticamente queste 2 serate, una il 10 e una il 17. Alla fine delle serate verrà creato su Telegram un sondaggio sul quale tutti avranno l'opportunità di fare un solo voto per la canzone che preferiscono. Per avvantaggiare ovviamente questo sondaggio e quindi ovviamente la votazione, la puntata che è andata in live sarà pubblicata nel feed di Pop Corner, quindi ovviamente sarà disponibile anche in podcast in versione integrale con tutte quante le canzoni, tanto non sono canzoni protette da copyright, e quindi durante l'arco della settimana la gente avrà l'opportunità di sentirsi le canzoni e votare quando ritiene di votare. Ovviamente all'inizio, insomma, della puntata successiva del 17 si interromperà, si bloccherà quel sondaggio. Alla fine della seconda puntata succederà la stessa cosa, quindi sempre sondaggio, puntata pubblicata in podcast, fino alla finale del 24, dove si scontreranno le prime tre di ogni girone, quindi le prime tre di ogni serata, e dove praticamente queste sei canzoni in totale si scontreranno in questa finale, dove dovremo trovare un sistema di voto in tempo reale, perché ovviamente noi vogliamo arrivare alla fine della serata decretando il vincitore, non aspettare una ulteriore settimana, quindi fare una quarta serata. Quindi detto questo, ecco, io insomma ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, sono in tanti, non me l'aspettavo, devo dire la verità, sono molto entusiasta e mi piace chiudere la stagione di Runtime Radio con questo progetto, con questa iniziativa che ha attirato comunque l'attenzione. Me gusta salir y amanecer. Ah, devo dire che questa Azul non mi è dispiaciuta. Tra l'altro Azul, se non sbaglio, dovrebbe significare azzurro. Non conosco minimamente l'artista, pure giustamente Mr. Zero in chat si domandava ma che cazzo è questo. E insomma, gli ho dato conto facendogli ovviamente uno screenshot dell'etichetta, insomma, della canzone, con tanto di autore, boh, non so, probabilmente deve essere roba moderna. Comunque lui dice che arriva il momento peggiore quando Runtime Radio va in ferie. Sì, non capisco, sono abituato, ma in realtà poi in qualche maniera noi ci teniamo sempre vivi, no? Magari faremo tantissimi vocali su Dirette Runtime, che sarà come fare dei podcast poi fondamentalmente. Invece il secondo argomento di cui volevo parlare questa sera è nato dal fatto che su YouTube, puta caso, casualmente, così come succede ovviamente con gli algoritmi di YouTube, mi è stato praticamente mostrato un video, anzi uno short, di quattro ristoranti. Quattro ristoranti è un, cioè, è la trasmissione di Borghese, adesso non mi ricordo lui come si chiama, che tra l'altro, insomma, non è uno chef stellato, ma è uno chef comunque figlio di una regista molto importante in Italia, comunque non è, insomma, l'ultimo degli scemi, che praticamente prende un tema o una regione e praticamente mette a confronto questi quattro ristoranti, che, selezionando quattro ristoratori che si devono scontrare ovviamente a suon di cene, e gli altri ristoratori, quindi i tre rimanenti che non sono attivi nella serata in cui, che ne so, uno cucina o comunque si va nel suo ristorante, gli altri tre devono, insomma, guardare, studiare, assaggiare tutto quanto e farsi ovviamente un'idea e fare poi ovviamente una pagella di quello che hanno visto, dalla location al servizio al menu e al conto, perché ovviamente adesso è tutto correlato, i voti vanno da 1 a 5 e tutto sommato è una cosa che ogni tanto, quando mi capitava di vederla su Sky, quando avevo ancora l'abbonamento a Sky, comunque sui canali, insomma, quelli secondari, adesso non ricordo neanche su che canale andava, e ogni tanto mi capitava di vederlo, perché comunque a me questi pseudo reality alla fine comunque come mi piacciono, no? Un po' come Cucina da Incubo, anche se poi lì c'è da dire, no? C'è un discorso molto molto a parte, molto laterale su quel tipo di programma lì, però insomma in generale è anche simpatico, anche se poi hanno fatto una versione di quattro ristoranti forse un po' più seria rispetto a quella che fa Borghese, però a me comunque sostanzialmente non dispiace, no? Mi piace vedere comunque i locali, mi piace vedere la gente interagisce, i commenti e via dicendo. È chiaro Ah, poi ovviamente dallo short io sono andato nel canale, mi sono iscritto e mi sono visto praticamente una selezione, una playlist, una selezione di puntate stagliuzzate ma complete, praticamente dalla prima alla sesta stagione, poi c'è la settima stagione, poi vedete insomma qualche cosa, insomma è tutto un po' spezzettato rispetto alle trasmissioni originali, però comunque va bene, cioè nel senso si lascia guardare, anzi forse questa versione un po' più short delle puntate regolari lo rendono anche forse più appetibile da un certo punto di vista, proprio perché comunque diciamo non ci sono tutte le parti dilungate. Ora vediamo un attimo un po' la questione reale. Noi l'abbiamo visto anche con Olivia, che Olivia ha partecipato a Cortesia per gli ospiti, che è un po' una sorta di versione del bon ton, diciamo, di questo tipo di programma. E intanto il cane va a destra, manca, non so cosa sta sentendo, va bene. E comunque dicevamo, delle famiglie, due famiglie praticamente si scontrano andando a cena prima da una e poi a cena dall'altra, e ovviamente devono dire ognuno quello che pensano insomma del servizio della mise en place e tutto quanto degli altri. Questi programmi, anche se hanno magari una base di verità, cioè nel senso che comunque magari la gara c'è veramente, le cose succedono veramente, è ovvio che hanno una parte costruita, no? Tutte le parti delle interviste, quando succedono le cose, un po' come se facessero l'intervista in tempo reale, no? Delle cose, cioè, come vedete su MasterChef, no? Che ne so, quello che non è eliminato dice speriamo di non essere eliminato, poi viene eliminato, subito dopo c'è, cioè, lui se ne è seduto senza la parannanza, e quindi dice sono stato eliminato, e si mette a piangere. Cioè tutta questa parte qui, insomma, del costrutto narrativo è chiaro che è un po' fake, cioè nel senso, diciamo così, è un po' costruito, ecco, un po' strutturato. E questo ce l'ha confermato anche un po' Olivia, cioè nel senso non è che quello che succede o non succede durante la trasmissione non è vero, non è vera, diciamo, la parte un po' più costruita, cioè diciamo quella più registica, diciamo, ma quello è anche abbastanza ovvio essendo uno show televisivo, no? Il problema nasce quando, secondo me, trasmissioni come Quattro Ristoranti, mentre per esempio è una cosa che io non mi capacito, ragazzi, ma poi può anche succedere, perché ovviamente loro non ti diranno mai come stanno realmente le cose, perché poi sia i candidati che ovviamente anche il conduttore firmano sicuramente dei contratti abbastanza importanti, non dal punto di vista oneroso, ma dal punto di vista dell'impegno, della segretezza, diciamo così, di quella che è la parte creativa, artistica, insomma, del programma, no? Magari comunque le persone hanno un impegno di non divulgare un po' le cose che succedono e che non succedono. Sono abbastanza convinto che sia così. Comunque quello che veramente non mi capacito è quando ovviamente le persone, tipo gli altri candidati, vanno a fare l'ispezione del ristorante di quello che in quella giornata ovviamente è in azione, e Borghese invece va a fare l'ispezione della cucina, e la maggior parte delle volte, diciamo, che trova cose veniali, però insomma cucine abbastanza pulite, però spesso capita, devo dire la verità, spesso capita che trova delle cucine sporche, con delle cose, dei cibi mantenuti senza seguire dei protocollari, le cappe tutte, l'olio non scaricato, tutta una serie di errori che a me, devo dire la verità, mi sembrano abbastanza irrealistici. Non che queste cose non esistano in una cucina, però io vedo abbastanza irrealistico il fatto che una persona si faccia trovare nell'ispezione del Borghese durante la trasmissione con la cucina a quelle condizioni là. A me sembra irrealistico, cioè o sei un pazzo oppure una cosa costruita da questo punto di vista, no? Scusate, ma sentivo delle voci. No, ok. D'altronde sono matto, sento delle voci. Non è che... Ah, ecco, ero io che parlavo, ok. Scusate, veniva dal mio telefono che ero io che praticamente parlavo. Vabbè. fondamentalmente questa cosa mi ha sempre lasciato molto molto interdetto. Io non so come la vedete voi, cioè nel senso è una cosa che mi lascia, è come se io faccio una gara di come si tiene un'agenzia d'assicurazioni e quando vengono trovano, che ne so, i documenti tenuti senza nessun rispetto della privacy, i fogli per terra, le cose zozze, cioè per me è inverosimile una cosa del genere. Io devo dire la verità, è inverosimile. Poi ovviamente durante la trasmissione fanno delle strategie, fanno ovviamente della strategia, e cioè nel senso che insultano, diciamo, trattano male il cuoco o il ristoratore che ovviamente in quel momento sta lavorando, dicendo che gli trovano questo difetto, questa cosa non si fa così, questa cosa non si fa colà. Ecco, ovviamente fa parte molto della strategia, poi cerca, insomma, Borghese di mantenere un po' un equilibrio tra queste cose, a volte rimane un po' perplesso delle cose che dicono gli altri, ma soprattutto la cosa più importante, secondo me, è il fatto che lui, sapendo comunque la trasmissione, comunque la produzione, sapendo che ovviamente tutti avrebbero fatto dei giochi sporchi, alla fine comunque sì, contano i voti degli altri ristoratori, ma poi alla fine quello che ribalta un po' tutto è il voto di Alessandro Borghese, che mi sono ricordato che si chiama Alessandro. Ecco, c'è una cosa veramente di questo tipo di trasmissione che mi lascia veramente veramente perplesso, e adesso vi dico cosa. Diao diao, Tito è bambino, ma sono Life Music. Noi panai e pa Dose and Fuel, la parte poi Wanda. Vabbè, Mr. Zero ci dice che queste canzoni, lui aveva 11 anni quando le ascoltava queste canzoni, devo dire questa faceva abbastanza schifo, ma fortunatamente ho avuto da fare e mi sono dovuto levare le cuffie per sistemare delle cose, altrimenti me la sarei dovuto sentire. Comunque, tornando un attimo a Quattro Ristoranti, alla cosa che proprio mi turba, è praticamente nella strategia ovviamente di tutto questo tipo di discorso, non si chiama golpe. Francesco, dimmi se vuoi partecipare, ti mando un link, apro il Bluetooth in qualche maniera, ma non mi distrarre per cortesia. Allora, io sto per dire una cosa che è antipatica, devo dire la verità, lo so che è antipatica, so che ovviamente è un mio preconcetto, me ne rendo conto, lo ammetto, va bene così, però e nella strategia, tra le persone che fanno strategia, io devo dire che quelle che veramente ci mettono più malignità sono le donne. Lo so, raga, io ne parlo spesso con Michela, lo guardiamo insieme e si vede proprio lo sguardo della persona che a volte, cioè, avete presente quando vedete la persona che è disturbata, cioè detesta, no? Quelle là, che lo vedi negli occhi, c'è cioè qualcosa che non va, no? Che non è solo perché sono matte o perché sono tutte matte veramente, perché secondo me a volte si rendono conto che stanno di una cosa che la vogliono di apposta, no? In qualche maniera. Tant'è che tra tutte queste, le donne che danno sempre tutto 1-1-2-2-1-1-1-2-1, che trovano sempre il capello del capello, ma con una, lo fanno anche gli uomini, ma la cattiveria che ci mettono le donne nel dire cose, io insomma, questa cosa mi ha sempre interrogato, perché, ma ribadendo che probabilmente è un mio preconcetto, se non così non fosse, secondo me c'è proprio un presupposto culturale, c'è proprio un'abitudine a questo tipo di fighting, cioè nel senso all'essere comunque cattive nell'esporsi e nell'esporre ovviamente le proprie idee. E questa è una cosa che un po' mi ha sempre lasciato perplesso, devo dire. E lo guardo con Michela e mi confronto anche con altre donne che inizialmente dicono: ah, ma che dici? Poi dopo comunque ripercorrono magari nella memoria e dicono: beh sì, in effetti, comunque. E poi quando glielo fai notare magari in diretta mentre lo stai guardando, dice: beh sì, in effetti. Beh, proprio una mi è capitata proprio ieri, che stava parlando di un che tra l'altro proprio cioè si vede proprio dallo sguardo quando uno sta di una cosa cattiva che c'è il cervello che ti sei intorcinato in quel momento, no? Perché questa di un piatto in particolare della tradizione de sor che cazzo de regione, a un certo punto lei dice: io poi non capisco perché mettere l'aglio. Allora Borghese se la guarda e dice: ma tu hai sentito l'aglio? No, però perché mettercelo? E poi, e quindi gli ha dato uno. al menù perché aveva deciso che questi ci hanno messo l'aglio. La cosa incredibile poi è: no, questi non sono crostacei chilometro zero di questa zona. E quindi devono andare in cucina a prendere le bolle ovviamente de ricezione, insomma, delle pescherie e via dicendo. Poi fanno pure delle figure de merda, perché nel voler dire che il prodotto non è fresco, che il prodotto non è fatto bene, che il prodotto... alla fine fanno anche giustamente figure de merda. Poi qualche volta ci azzeccano anche, perché poi, come si dice, come diceva il buon... come si chiamava? Presidente? Andreotti, come diceva il buon presidente, parla male, è peccato, ma spesso ci si azzecca, insomma, fondamentalmente. E ovviamente diciamo che questo tipo di atteggiamento lo riscontro costantemente, e poche volte mi è capitato di vedere delle persone che hanno fatto o hanno avuto un atteggiamento positivo, cioè positivo nel senso riconoscendo i limiti, i difetti e riconoscendo anche i pregi. E quando riconoscono i pregi, gli altri fanno: ah no, ma tu sei troppo buono, dice, non, cioè, come ti dice, tu non vincerai perché sei buono, no? Nel senso, dai voti di arti agli altri. Ma giocare di strategia nei limiti di quello che il programma ti permette di fare, lo puoi anche fare, ovviamente devi essere credibile, no? Perché secondo me poi alla fine, se tu non sei credibile, al di là di quanto poi questi programmi siano strutturati, siano, come posso dire, un po' artificiali, no? Un po' c'è un po' di storytelling dietro, sicuramente sono anche un po' imboccati, indirizzati, e ovviamente tu devi sempre mantenere quel limite che ti permetta di non farti fare neanche quella brutta figura, perché magari c'è la volta successiva che la gente si era fatta una buona idea sul tuo ristorante, però poi gli vai sul culo e non te ci vengono più, perché comunque questi ristoranti alla fine esistono veramente. E quindi ovviamente dal modo in cui tu esci da quel posto, a volte noi alla fine della trasmissione con Michela ragioniamo pure su questo. Cioè, nel senso, mi sarebbe piaciuto quel ristorante, ma tu oggi, mo adesso ci andresti più? Che a me questa mi è andata sul culo. No, non ci andrei. E quindi poi alla fine c'è tutta questa discussione. Qui c'è questa cosa, proprio, vedi, lo sguardo cattivo, a volte anche superbo, no? Cioè, questa cosa ha rovinato tutto. Ma ti hanno detto che non è così, cioè nel senso pure voler andare oltre il ragionevole dubbio, no? Perché poi giustamente Borghese a volte lui tenta sempre di tenere un po' tutto in equilibrio, non prende mai una posizione e via dicendo, però a volte si vede pure lui c'è un puzz, cioè nel senso quando è ridicolo, no? Ovviamente diventa ridicolo, no? Cioè ci farebbe anche brutta figura lui se comunque in qualche maniera non facesse quell'espressione che te fa capire ma che cazzo sta di questa, cioè. E vabbè, questo è un po' una cosa che mi è sempre rimasta, al di là del fatto che mi domando, no? A volte tu vedi che, insomma, queste cene che iniziano che c'è il cielo chiaro e finiscono a notte fonda, quando magari, cioè, nel senso, la cosa sarebbe durata un'oretta, ma perché c'è la televisione di mezzo, perché c'è tutto il costruito, c'è tutto il girato, c'è lo stop azione, c'è chiaramente tutto quello che rende un programma come questo non solo più artificiale, ma a quel punto ti domandi anche quanto poi questo artificio, questo livello di artificiosezza, insomma, alla fine comunque in qualche maniera inficia pure la veridicità del programma, no? Perché abbiamo capito, come diciamo pure con, poi incalzavamo Olivia quando ha parlato appunto delle cortesie per gli ospiti. Cioè è vero che tutta quella parte lì è tutta un po' costruita, loro ti imbeccano, te cosano, però poi alla fine comunque la cena, le cose da mangiare ci stanno veramente, anche se poi ci sono tutta una serie di protocolli, di cose che tu devi seguire, cioè devi fare, insomma, che deve essere pure un po' una palla. E quindi secondo me quello che indipendentemente da tutto si spezza è la naturalezza di un lavoro del genere. E quindi tante volte quando vedo tutte queste donne con gli occhi de fuoco che dicono: no, qui c'è l'aglio, cioè, ma tu l'hai sentito l'aglio? No, non l'ho sentito, ma non ci va comunque, quindi ti metto uno, cioè non capisco mai quando sono veritiere, quando sono imboccate o no. Mazzo. Quindi questa sera proprio nazional popolarismo totale, quindi c'è tutte canzoni un po' così. Allora ragazzi, faccio un po' fatica a finire la trasmissione, ma ci voglio provare perché mi è venuta la tosse. Sarà forse l'aria condizionata, chi può dirlo? Chi può dirlo? Sicuramente lo è, ma questi giorni ha fatto veramente caldo e quindi insomma beccatevi il conduttore con la tosse. L'ultimo argomento di questo episodio, un argomento di cui ho già parlato diverse volte, non tantissime, ma qualche volta ho parlato, che è ovviamente la questione del paranormale, perché è un argomento che, come ho detto tante volte, mi affascina. Perché mi affascina? Mi affascina perché faccio fatica a credere che possa esistere una vita dopo la morte, per come viene interpretata, diciamo, e raccontata da chi crede a determinate cose, quindi ai fantasmi o alla religione e via dicendo. Dall'altra parte però ammetto che il mio cervello non accetta il fatto che la vita e l'accumulo di energie e di esperienza che una persona ha fatto nel percorso della sua vita vada perduto, completamente perduto, nel momento in cui smetti di esistere, ecco, diciamo così. Poi è vero anche che in realtà nulla va veramente perduto, perché tu comunque hai comunque lasciato parte delle tue esperienze, quindi delle connessioni che tu hai costruito all'interno della tua vita a qualcun altro, e quindi se veniamo l'umanità nel suo senso più organico e complesso, diciamo così, è vero che se veramente tutto quello che un uomo ha creato come esperienza svanisce completamente quando lui muore, vuol dire che non ha vuol dire che magari non ha mai contribuito, diciamo, al resto dell'umanità. L'umanità ogni volta che muore qualcuno tornerebbe indietro, poi fondamentalmente in realtà l'umanità è evoluta grazie ovviamente alle esperienze condivise, grazie a quello che sono appunto le cose costruite insieme alla collettività, e quindi quello che tu della tua esperienza hai lasciato agli altri, di quello che tu hai imparato hai lasciato agli altri, e quello che gli altri ovviamente hanno lasciato a te. Quindi c'è comunque questa evoluzione organica. Poi se la si guarda in senso più esteso, noi comunque facciamo parte di un meccanismo, noi siamo un niente di un meccanismo più ampio e più complesso, del quale ancora non abbiamo capito tante cose sui suoi meccanismi, però insomma stiamo imparando tante cose anche sull'universo nel suo insieme totale, quindi delle connessioni, anche questi fili praticamente di materia che uniscono miliardi e miliardi di galassie sparse in un'infinità di spazio che per noi è completamente al di fuori della nostra comprensione. Quindi diciamo che se uno proprio volesse cercare, una persona come me volesse cercare una forma di visione non religiosa, ma insomma qualcosa che veramente sia una sorta di meccanismo non consapevole ma esistente, basta pensare all'universo. L'universo alla fine è comunque questa sorta di meccanismo universale, appunto, esistente, che lega tutte quante le cose, materia conosciuta e materia sconosciuta. Però è chiaro che da qua a pensare che ci sia un'intenzione, no? A pensare che ci sia una mente, anche se poi questa cosa della mente, del cervello universale, è poi un'altra delle cose che i fisici teorici più estremi pensano. Dicono, cioè alcuni sostengono che l'universo sia in realtà un enorme computer, no? Un enorme cervello pulsante, funzionante, ma qui poi entreremo in discorsi che in questo momento non c'entrano niente. Quindi diciamo che di per sé non credo al fantasma, nel senso quello che ti si presenta, sono il fantasma. Non credo neanche in un'energia, diciamo, residua di un qualcosa che è successo legato all'evento del trapasso di una persona in un determinato luogo. Non penso neanche, come dicono tantissimi, che ci sia una sorta di memoria, come posso dire, universale, dimensionale praticamente, che tiene traccia di tutto quello che è successo all'interno della storia dell'universo. Però poi alla fine comunque certe cose un po' me le sbircio, un po' me le studio, pensando comunque due fattori fondamentali: uno, a quanto l'elemento paranormale sia legato in maniera psicologica, culturale, antropologica, in tutte le culture dell'umanità, proprio dalla notte dei tempi, no? Cioè dalla spiegazione dell'inspiegabile al cercare di razionalizzare anche delle regole comportamentali che comunque hanno aiutato poi alla fine l'uomo non dover affrontare magari delle spiegazioni troppo complesse, ma può imporre, diciamo, dei regolamenti. E poi ci sono poi le leggende, i miti, le tradizioni, la roba legata a, che ne so, a quello che è il mondo scandinavo, il popolo fatato, gli elfi, le fate e via dicendo, come da noi per esempio in Italia tutta una serie di tradizioni legate anche alle streghe, alla magia, a cose insomma che tutto sommato alla fine fanno parte tutte quante di un meccanismo universale che si mischia in una maniera incredibile tra anche ovviamente contaminazioni culturali e via dicendo. E poi c'è quella gente che finge di crederci, c'è quella gente che ci crede per paraculaggine o speculazione, e poi c'è invece quelli che ci credono perché si infanatizzano, diciamo, da un certo tipo di discorso, si autosuggestionano pensando di aver avuto l'esperienza X piuttosto che Y, e sono quelli che ovviamente con i quali tu non ci vuoi parlare, perché se tu vuoi cercare di affrontare con me un discorso anche filosofico, anche solo un esercizio di stile, così, di conversazione, non necessariamente con una visione empirica della cosa, io lo affronto anche la discussione, ma quando tu mi dici io sento le energie negative, oddio mi sento male, tu stai andando proprio in un discorso che è come per me, questa è un po' la mia visione, scusate, poi non vorrei mancare rispetto a nessuno, però era come con le assicurazioni un po' di tempo fa, no? Tu dichiaravi che avevi sbattuto il ginocchio era una cosa insondabile e quindi te pagavano l'assicurazione, cioè, nel senso, tu stai affrontando una cosa che io non posso sapere veramente fino in fondo se è così o no, e quindi io lo devo dare per buono, no? Cioè, come quelli che tu vedi che cercano magari di andare a fare, che ne so, le ispezioni dentro le case, portano degli strumenti, i rilevatori dei campi elettromagnetici per vedere se ci sono delle entità, come perché ci sia questo legame tra una presenza, una ipotetica presenza di un'entità, insomma, di una persona trapassata, e il campo elettromagnetico lo sanno solo loro. Però questo, diciamo che in un ipotetico ragionamento dove tu comunque stai a provare a fare comunque un meccanismo, dà un senso a questa cosa, uno lo può anche non dare per buono, però insomma, diciamo, vabbè, ok, cioè nel senso. Ma quando vedi le persone che entrano dentro, ah, io sento i brividi, ah, io qui mi sento male, sento, c'è una bambina, e poi ci sono queste cose che a me fa troppo ridere, ci sono sempre le bambine, voi perché non ci fate caso, perché non li vedete i video, ma anche quelli seri, poi dopo ci sono quelli seri che poi dopo si fanno pure loro prende un po' dalla cosa, perché chiaramente l'argomento del paranormale tira una cifra, e quindi da pochi canali che parlavano che facevano queste show, diciamo, perché poi alla fine diventa intrattenimento, di paranormale che guadagnavano un sacco di visualizzazioni, adesso è pieno di gente che più o meno imita tutte quante le stesse cose, vanno tutti negli stessi posti, e poi c'è gente che ovviamente cerca di come posso dire, validare il ragionamento dell'impossibile, cioè c'è gente che s'ostina a dire che quella cosa è così, perché tipo, non so se conoscete la leggenda di Azzurrina, che praticamente sta Azzurrina, che non si sa manco se è mai esistita, praticamente era questa bambina che figlia di questi signori del castello, che era nata albina, e quindi lei era molto pallida, con gli occhi chiarissimi e questi capelli praticamente bianchi, e la madre ovviamente per proteggerla dal fatto che prima o poi qualcuno l'avrebbe sacrificata, perché le bambine albine venivano considerate come un atto del demonio o cose del genere, provava a scurirgli i capelli, e questi capelli non si scurivano, diventavano azzurri poi fondamentalmente, e sta bambina giocando, insomma, pare che le guardie l'hanno tirata in una sorta di trabocchetto, l'hanno fatta cascare giù dalle scale ed è morta. E quindi tutti a fare i rilevamenti elettromagnetici, sto fantasma di sta azzurrina, che poveraccia, nessuno, oltre che è morta, gli devono pure rompere il cazzo, no? Perché poi è questo. E c'è uno che praticamente vedete, ho registrato dei contenuti di metafonia. La metafonia è la registrazione dei suoni che provengono ovviamente dalle entità, cioè nel senso vengono chiamati anche EVP, no? Electronic Voice Phenomena, che vabbè, in realtà non so la stessa cosa, però vabbè. Comunque, e che tra queste parole ovviamente sentivano parole tipo ok, no? Cioè nel senso, andando ad analizzare bene, amplificando e pulendo tutto il suono, sentivano delle parole, tra queste parole c'era ok. E questo che ovviamente diceva che ok era una parola che si usava nel Medioevo. Perché poi dopo, alla fine, questa gente non c'ha neanche bisogno di giustificare cose, perché la gente che sta lì e che gli va dietro, gli crederebbe comunque, cioè non gli interessa, cioè che credono a prescindere da tutte queste cose, no? Se ne fottono completamente della verità, che è un po' quello che succede oggi nella politica, eh? Cioè ormai la gente si è talmente lobotomizzata che preferisce credere a prescindere sulle cose, no? Però se io vado dentro un castello con un microfono ipersensibile durante la giornata e punto il microfono verso la scalinata in fondo dove è cascata Azzurrina, vuoi o non vuoi, per tutte le contaminazioni ambientali, le persone che stanno fuori, dentro al castello, in giro per il castello, fuori dal castello, sull'autostrada, via dicendo, qualcuno che parla lo prendi, cioè è inevitabile, no? Quindi poi alla fine, oppure come io ogni tanto scazzo, perché cioè no, scazzo, insomma, li faccio i commenti, li prendo per culo, cioè questi qua che a un certo punto dice no, abbiamo fatto una ricerca dal punto di vista proprio cercando di essere più accademici possibile, abbiamo piazzato queste telecamere nella notte nell'appartamento lasciato da solo per farvi vedere che succedono cose strane. Io vi faccio, scusate, ma succedono cose strane, c'è un gatto dentro casa, cioè il gatto si muove, fa rumore, sposta le cose, cioè io ho il gatto mio che sposta le sedie. I primi tempi pure io pensavo che c'è il poltergeist dentro casa, ma poi l'ho visto che era il gatto e quindi ho detto vabbè, non è un poltergeist, cioè che c'entra, il gatto è sempre stato lì, non è le anomalie sono comunque palesi, ma non sono palesi perché tu vuoi che siano palesi, cioè nel senso non c'è, io a me queste cose mi fanno incazzare, cioè capito? Perché poi io rispetto pure le persone che magari ci credono pure genuinamente, o che comunque più che ci credono sono curiosi, si mettono lì, cercano di indagare, di incrociare le cose, di cercare di trovare non delle spiegazioni, ma insomma un certo tipo di possibilità di ragionamento, rispetto anche a quelle che sono le cose in cui crede. Io rispetto il fatto, ma poi, però non puoi dire che quella è la verità, no? Cioè nel senso, non puoi ragionare sul fatto che queste cose siano. E per esempio poi mi è capitato proprio recentemente un video di un tizio tutto imbacuccato, perché poi secondo me alcuni si vergognano pure, tutto imbacuccato tipo un ninja che va insieme ad altre persone. Poi lui cerca, ho sentito un rumore, e poi la tipa, perché poi pure qui, no? Sono sempre le femmine quelle ipersensibili a queste cose, perché sono quelle che si autosuggestionano con questa cosa che loro in fondo c'hanno una nonna che era strega, che faceva le magie, e quindi loro hanno questa sensibilità paranormale, no? E che dice no, perché ho sentito un rumore, no, io sento i brividi qua, mi sto sentendo male, mi sta scaricando l'energia. E allora tutti a dire non prendere energia da lei, prendi energia dalle nostre torce elettriche, come se ci stanno sti cazzo dei fantasmi che per manifestarsi gli servono dei caricare batterie, no? E che l'energia della torcia elettrica è la stessa energia di un essere umano, poi fondamentalmente, che tutto sommato ci può anche sta, perché in realtà sempre di elettrochimica si tratta, insomma, no? Però mi fa ridere sta cosa, no? Che cioè, nel senso, di benedetti fantasmi che fanno cose insomma strane e che hanno bisogno ovviamente dell'energia umana. Quindi tutto sommato ribadisco, a me l'argomento mi affascina e continuo a guardare cose. Ci sono anche persone serie che chiaramente arrivano sempre tra virgolette a conclusioni sbagliate, perché se tu pensi di aver trovato una cosa è perché comunque la vuoi cercare da un certo punto di vista, perché prima di raggiungere delle conclusioni, come insomma lo studio accademico e scientifico ci dovrebbe insegnare, tu dovresti aver fatto studi su studi incrociandoli con altri studi o altri studiosi che dovrebbero verificare quello che tu hai studiato, insomma, no? No, lo si accontenta, ma è così, cioè, ho visto, ho parlato con Azzurrina, l'ho tenuta in braccio, c'è, cioè, uno ha detto che l'ha tenuta in braccio Azzurrina. Stai ascoltando Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. Amigo, de aquí no te vas, si te vas eres conmigo. Conmigo, conmigo, c'è qualcosa che succede conmigo e se la fa manda bene. Vabbè, ragazzi, io direi che insomma se ne potremmo pure andare a dormire, perché un'oretta ce la siamo passata insieme. Abbiamo cercato insomma di, intanto vabbè, saluto pure al 9000 che ha partecipato insomma alla diretta. Lui dice giustamente un argomento leggero, e Mister Zero dice giusto per tenere in vita la serata. Beh ragazzi, ma parlate paranormale, non è necessariamente parlate morte, cioè nel senso, comunque si può parlare pure di sì, insomma, comunque sì, sicuramente c'è una connessione, perché come giustamente dice pure al 9000, alla fine la gente un po' ci crede, proprio perché per tenere in vita la speranza ci sia qualcosa, anche perché se proprio lo dobbiamo dire, mo adesso magari Mister Zero non ci pensa perché è veramente giovane, ma poi quando arrivi insomma magari all'età mia, a volte, anche se io non sono una persona che si fissa su sta cosa, non sono un crepuscolare, non sono una persona oddio devo morire, però un po' qualche volta uno ci pensa, no? Al fatto che comunque prima o poi tocca morire, e quindi un po' fa paura sta cosa, no? Cioè il pensare che diventi niente, cioè non esisti più, cioè è una cosa talmente al di fuori della capacità del cervello di elaborare il niente, il nulla, che quindi per noi è automatico il pensare che comunque dopo che siamo morti c'è qualche cosa, è automatico, è proprio una questione proprio fisiologica, cioè penso che sia proprio un'incapacità della nostra natura, insomma, di ragionare da questo punto di vista. Poi in generale magari c'è pure qualcosa, non lo sappiamo, non ci interessa, ma sicuramente quello di cui abbiamo paura, ossia praticamente dell'ignoto, del nulla, alla fine noi lo riempiamo di miti e di leggende, perché chiaramente è nella nostra natura, è la nostra natura sin dalla notte dei tempi, e per quanto ovviamente siamo evoluti da questo punto di vista, e per quanto tanti di noi oggi ragionano in maniera empirica, quindi pensano che non ci sia niente, in realtà poi alla fine questa cosa c'è dentro di noi, un pochino ce la portiamo dietro. Cioè io quando sentivo Margherita Hack o tante altre persone, o tipo Piero Angela, che dicevano di non aver paura della morte, che tanto io sono convinto che loro erano convinti di questa cosa, ma dall'altra secondo me c'era una parte di loro che non era così onesta, no? Da questo punto di vista, cioè questa è un po' la mia sensazione, non so poi come la vedete voi. Poi io non voglio, come dice giustamente al 9000, dice solo un essere con un ego così smisurato come l'umano, diciamo, poteva pensare che esistesse un Dio e che magari avesse pure sua immagine e somiglianza. Ma in realtà io poi su questa cosa non voglio entrare, per me Dio non esiste, chiaramente, però non sono così drastico, nel senso che dico sono scemi quelli che pensano che Dio esiste, perché io rispetto le persone che hanno la fede in qualcosa, purché questa fede ovviamente non condizioni in maniera, come posso dire, fideistico, fanatica, insomma, il resto della sua esistenza o delle persone che stanno intorno. Perché ci sono tantissime persone che credono in Dio, ma che poi credono anche nella propria coscienza, che è il punto di partenza di ognuno di noi, con il quale ovviamente dobbiamo fare i conti, perché se ragioniamo tutto sul fatto che esista un Dio, poi se Dio non esiste ti rendi conto che hai fatto il 70-80% delle tue scelte su una stronzata. Cioè questo è un po' il discorso che mi viene da fare. Ma andiamo verso la chiusura di questa canzone di questa trasmissione così bella, questa puntata notturna buttata là a caciotta. Tanto per poi vedo che state a scrivere, vabbè, vi rispondo dopo che ho fatto i saluti, ragazzi, perché come sapete non è che sono proprio sverto a leggere, parlare e fare tutte le cose insieme, purtroppo ho dei miei limiti oggettivi con i quali faccio i conti da 52 anni e che mi hanno sempre reso orgoglioso di essere quello che sono e di essere diventato quello che alla fine sono diventato, appunto, e quindi va bene così. Oggi io alla mia età sono arrivato in questo preciso momento, in questa precisa situazione, davanti a questo meraviglioso microfono, a parlare con due persone che ci sono in ascolto, che sono altrettanto meravigliose, perché è giusto così, è stato questo il mio cammino e il mio cammino mi ha portato qua. Ragazzi, grazie di tutto, buonanotte e mi raccomando, state bene e sostenete Runtime Radio. Oye, en la Bayal del Tego Calde con DJ Yo, yo, metiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, Tego Calderón pa' que retoce, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami, ya ando bien.